Io sono Silvia, abito a Olzano, un paesino nella provincia di Pistoia. Sono un'informatica, lavoro in un gruppo bancario e ho un sacco di hobby perché mi piace lo sport, mi piace il teatro, mi piace la pittura. Ho due figli e questo è tutto.